Se il mio nome sa per voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'indoro che fido m'adoro, che sposa vi bramo, chi ha nome vi chiamo, chi ha nome vi chiamo. Di voi sempre parlando così, no. Tramonto del dì, ma l'aurora al tramonto del sincero l'indoro, non può darvi mia cara un tesoro. Ricco non sono, ma un cuore vi dono, un'anima amante che sospira così, ma l'aurora al tramonto del dì, ma l'aurora al tramonto del dì. Thank you.